strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. DL Rilancio, è arrivata dal governo una prima ammissione sull'assenza di sostegni adeguati al settore dell'auto e l'impegno anche a fare di più quando il decreto sarà convertito in legge. Il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, nella relazione in Commissione Industria al Senato dello scorso 19 maggio, ha infatti dichiarato che l'automotive è uno dei tasselli che ancora mancano. Patuanelli ha poi aggiunto che c'è un segnale rispetto all'auto elettrica anche per garantire la possibilità di raggiungere gli obiettivi del piano energia e clima, ma un ragionamento sull'automotive andrà fatto in sede di conversione. L'impatto dell'emergenza Covid-19 sulla filiera italiana della metalmeccanica è stato pesante e rischia di compromettere molto seriamente un settore di interesse nazionale che occupa 1,6 milioni di addetti e il cui fatturato ammonta a 430 miliardi di euro. È sulla scorta di questa preoccupazione che le associazioni e le federazioni del mondo della metalmeccanica e della meccatronica, tra cui Anfia, Anie e Federmeccanica, hanno deciso di indirizzare una lettera congiunta al governo in cui richiedono un impegno sinergico di istituzioni e banche affinché le misure previste dal decreto liquidità abbiano piena e soprattutto veloce attuazione. Progettare una nuova mobilità post-Covid rafforzando la ricerca e l'innovazione sui veicoli a guida autonoma e connessa. È con questi obiettivi che in occasione del Motor Digital Fest di Modena è stato siglato un protocollo d'intesa tra due ministeri, quello dei trasporti e quello dell'innovazione tecnologica. Ascoltiamo la scheda. Nuovi passi avanti per l'attuazione della guida autonoma nel nostro paese. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione hanno siglato infatti un protocollo di intesa per lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in questo campo. Le due titolari dei dicasteri, Paola De Micheli e Paola Pisano, hanno sottoscritto in occasione del Motor Valley Fest di Modena un documento che prevede la prototipazione, la produzione e la formazione di nuove professionalità sulla guida autonoma e connessa. L'accordo sostiene e incentiva anche la collaborazione e il partenariato tra istituzioni pubbliche, imprese, università ed enti di ricerca. Si tratta del primo atto di una collaborazione che autorizzerà, fra l'altro, avvisi pubblici rivolti a soggetti interessati a promuovere lo sviluppo sul campo di modalità alternative di mobilità e trasporto, attraverso l'istituzione di un polo della mobilità innovativa per lo sviluppo tecnologico e la produzione di nuove generazioni di mezzi. E al Motor Valley Fest Digital di Modena dedicheremo uno spazio tra pochissimo. Intanto andiamo avanti con il nostro notiziario. L'emergenza sanitaria mondiale ha interrotto momentaneamente l'esecuzione di nuovi test di Euro NCAP, il consorzio europeo che organizza crash test sui veicoli nuovi, ma sono state comunque introdotte delle importanti novità per il 2020. I nuovi test mireranno soprattutto ad una migliore protezione degli occupanti, ad una rinnovata protezione post-incidente e alla promozione di nuovi sistemi di assistenza alla guida. Tra le novità, la nuova barriera mobile per la prova dello scontro frontale e la valutazione dell'interazione tra conducente e passeggero in caso di urto laterale. Verranno poi introdotti nuovi scenari di valutazione, come l'investimento del pedone in retromarcia e la svolta in corrispondenza di un incrocio. 600.000 visualizzazioni, oltre 93.000 interazioni sul canale di Facebook, 9.000 ore di visualizzazione dei contenuti video sul canale YouTube. Sono questi i numeri del Motor Valley Fest, la versione digitale quest'anno che si è tenuta la scorsa settimana e che ha coinvolto ovviamente ancora una volta l'organizzazione Motor Valley, e cioè tutte le case costruttrici e le aziende dell'indotto che ruotano attorno alla provincia di Modena, l'Emilia Romagna in genere. Noi ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Claudio Domenicali, AD di Ducati, ma soprattutto presidente di Motor Valley. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, buonasera a sugli ascoltatori. Allora, dicevamo, un evento che quest'anno è diventato digitale, ovviamente causa coronavirus, ma che ha avuto un successo sicuramente inaspettato. Sì, devo dire che questi numeri hanno positivamente sorpreso anche noi, parlano a questo punto in modo inequivocabile della voglia che c'è nel mondo, perché qui abbiamo parlato al mondo intero dei prodotti che realizziamo in questa Emilia Romagna, in questa parte straordinaria in cui si concentrano questi marchi, e devo dire anche che è stato difficile, complicato. L'organizzazione ha fatto un lavoro veramente straordinario, perché è stato cambiato completamente il format. Il Motor Valley Fest nasce come la possibilità per tutti gli appassionati di vedere e toccare con mano. Quest'anno non era possibile, ma credo che sia anche un bellissimo segnale, perché era molto facile in un qualche modo dire rinunciamo, non lo facciamo, lo posticipiamo di un anno. Invece dalla regione Emilia Romagna, il comune di Modena, le aziende coinvolte hanno caparbiamente voluto trasformare questo festival in formato digitale, e devo dire che il risultato è una bellissima anche ispirazione per non mollare, ma trasformare il modo in cui facciamo le cose in questo momento. Tante le iniziative che hanno caratterizzato questa 4 giorni, fra un po' ne parleremo, ma prima ascoltiamo uno dei messaggi dei tanti ospiti, quello di Jean Todt, cioè del presidente della FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile. Rifletterei su come il mondo della mobilità può e deve ripartire dopo l'impatto del Covid-19 è importante. Non solo per capire le conseguenze su alcune dinamiche che credevamo ormai consolidate, l'evoluzione dell'auto elettrica, la mobilità condivisa, la connettività, ma anche per favorire una più radicale trasformazione del sistema dei trasporti per renderli più sicuri e più sostenibili. E rientriamo in studio. Allora, Domenicali, questo era il messaggio di Jean Todt, ma come dicevamo sono stati tanti gli avvenimenti che hanno caratterizzato questa 4 giorni. Ce li racconti un po'? Sì, questi 4 giorni si sono in qualche modo svolti attraverso una serie di incontri tematici. Abbiamo cominciato la mattina del giovedì, giorno di apertura, con un incontro fra gli amministratori delegati delle aziende della valle, di questa Motor Valley, il presidente della regione Bonaccini, Massimo Bottura, che è in rappresentanza della bellezza gastronomica, se vogliamo, di quest'area, e quello è stato un po' l'evento di apertura in cui in un qualche modo ci piace dare in questo momento di apertura la possibilità a tutti gli appassionati e anche agli operatori del settore di avere una discussione sui macro trend, cioè sulle tendenze che in un qualche modo in questo mondo dell'automotive e del futuro ci vedono impegnate, le sfide. Ci piace pensare che questo Motor Valley Fest possa diventare anche nel tempo sempre più l'evento in cui si discute dell'auto, del mondo della moto, del mondo della mobilità e del futuro. Certo. Questo è stato l'evento di apertura. Poi ci sono stati tanti eventi tematici, ci sono stati eventi dedicati al mondo delle corse, eventi dedicati al mondo della formazione, all'università, alle start-up. Qualcuno lo ha già definito l'erede del Motor Show, proprio per l'importanza che sta assumendo questa manifestazione. Ma diciamo che c'è sicuramente una grande volontà della regione di dare una continuità a questo evento che è stato il Motor Show nel passato, in cui ha richiamato centinaia di migliaia di appassionati. Credo che sia importante anche l'idea di cambiarne completamente il format, e quindi in quel momento era spettacolo puro. Oggi è molto più, in realtà, sicuramente venire in contatto con i brand e con appunto i prodotti, ma anche riflettere molto di più sul futuro e portarci dentro le università, portarci dentro la formazione, proprio perché questa terra parli agli imprenditori, agli appassionati e al mondo intero dello sviluppo futuro di questo settore. Bene, termina qui questa prima parte di Strade Motori. Ringraziamo e salutiamo Claudio Domenicali, Didi Ducati, presidente dell'associazione Motor Valley. Ci risentiamo tra pochi minuti per parlare di BMW insieme con Massimiliano Di Silvestre, presidente e Didi BMW Italia. A tra poco. Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio! Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto? Analogico che non sei altro. Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio. Eh sì, da quest'anno dove c'è radio c'è DAB. Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra. Sì, però svegliati, eh? Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, ci occupiamo di BMW, in particolare di BMW Italia. Ovviamente c'è un clima di attesa importante alla luce delle riaperture di queste ultime settimane e anche un minimo di speranza dopo che, come abbiamo anche ricordato nella prima parte del nostro appuntamento qualche minuto fa, il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, in una relazione in Commissione Industria del Senato, ha detto che potrebbe esserci spazio in sede di conversione del decreto legge rilancio per ulteriori interventi per il settore dell'automotive, che è stato praticamente dimenticato in questo provvedimento, se escludiamo un rifinanziamento minimo del vecchio meccanismo del bonus malus. Di tutto questo parleremo tra poco in compagnia del nostro ospite, che è Massimiliano Di Silvestre, presidente e AD di BMW Italia. Buonasera e grazie per essere qui con noi. Buonasera a lei, grazie. Allora, innanzitutto però, come sta andando? Come si è organizzata BMW per questa ripresa? Noi siamo ripartiti un paio di settimane fa in assoluta sicurezza, perché abbiamo implementato un protocollo sia a livello centrale sia condiviso con tutta la rete dei concessionari, per cui i nostri clienti possono essere tranquilli che in concessionaria troveranno dei processi solidi in maniera tale da poter gestire diciamo qualsiasi tipo di trattativa in modo assolutamente sicuro. È chiaro che il traffico non è diciamo molto intenso in questo periodo, quasi tutto viene ancora alimentato dal canale digitale, quindi la digitalizzazione del resto è stato un nuovo pilastro, è un nuovo pilastro per quanto riguarda il business dell'automobile nel prossimo futuro. Abbiamo lavorato moltissimo sulla digitalizzazione e sui processi di acquisto. È chiaro che abbiamo rivisto tutti i nostri budget rispetto all'inizio dell'anno, una partenza molto importante per il gruppo BMW, abbiamo guadagnato volume e quote di mercato, poi è arrivata la doccia fredda di questa crisi inaspettata, per cui abbiamo ridisegnato gli scenari. Oggi abbiamo un nuovo scenario di volume condiviso anche con la rete che riguarda un po' tutti i brand del gruppo, non solo BMW, anche Mini e Motorrad, e quindi diciamo che proseguiamo la nostra storia, anche perché abbiamo moltissimo da raccontare, abbiamo molti modelli nuovi appena lanciati, abbiamo dei lanci imminenti, per cui abbiamo tanti argomenti da condividere con il mercato. E di questi lanci parleremo tra poco, quindi un invito a tutti i nostri ascoltatori di rimanere collegati con noi per sapere quali sono e quali saranno le ultime novità BMW. Ma ritorniamo a questo mercato che ha bisogno di uno stimolo per ripartire, anche perché noi abbiamo un parco circolante particolarmente anziano. Quali sono le ricette che voi proponete per uscire da questa situazione? Allora, io partirei dal peso dell'automobile, dal ruolo dell'automobile e dalla sfida dell'automobile, soprattutto per questo paese. Il peso dell'automobile, l'automotive in generale, non soltanto la vendita di automobili, ma anche tutti i servizi legati all'automobile, gli studi di design, le agenzie di pubblicità, piuttosto che gli acquisti di componentistica sul mercato Italia, incidono sul PIL in maniera determinante, quasi 12%. Il peso dell'automobile va interpretato anche come peso sul totale entrate tributarie dello Stato italiano, circa il 16%. Quindi il ruolo dell'automobile, l'automobile e anche direi la moto, sono i mezzi di mobilità preferiti dagli italiani perché ritenuti più sicuri e anticontagio, quindi questo per gli spostamenti individuali e familiari. E poi c'è la sfida dell'automobile perché, come lei diceva, il parco circolante italiano è vecchio, è inadeguato, è inquinante, non è sicuro, quindi c'è la sfida della mobilità sostenibile. Come si vince la mobilità sostenibile? Si vince non soltanto con l'offerta di una mobilità elettrica, ma anche con l'ibrido piuttosto che con le motorizzazioni convenzionali Euro 6, diesel e benzina. Questo è il mix di tecnologie che può assicurare la transizione verso la mobilità sostenibile. E in questo noi come BMW Group abbiamo un'offensiva di tecnologie che è assolutamente unica e straordinaria. Ora, che cosa abbiamo chiesto come tavolo un RAE al governo? Abbiamo chiesto ovviamente degli incentivi per stimolare la domanda e poi un'altra grandissima opportunità è quella di riallineare la fiscalità dell'auto aziendale agli standard degli altri paesi europei, sia in termini di totale detraibilità dell'IVA che aumento del costo massimo deducibile. Questo è un punto importantissimo per poter ripartire. Tra l'altro il tema dell'auto aziendale era un tema caldo già prima dell'emergenza Covid, perché c'erano stati alcuni provvedimenti discutibili, poi ritirati da parte del governo, insomma c'era un po' di dibattito acceso, quindi speriamo che su questo tema si ritorni in maniera chiara, soprattutto per stimolare anche il mercato aziendale, il mercato delle auto aziendali, che è un mercato che rappresenta, come ricordava anche lei, un segmento importante per le case costruttrici. BMW in realtà, come molte altre case costruttrici, in questa fase di lockdown non si è fermata totalmente, a parte le officine che hanno continuato a lavorare, ci sono state anche delle iniziative che l'hanno caratterizzato, hanno caratterizzato queste attività, altre che caratterizzeranno le attività future, ad esempio quelle sull'usato o l'iniziativa Siamo qui per te. Abbiamo lavorato moltissimo sulla digitalizzazione e sull'evoluzione dei processi di acquisto. Lei faceva riferimento all'usato. Noi abbiamo rilanciato il nostro e-commerce per scegliere, acquistare e ricevere direttamente a casa una BMW, una Mini o una moto usata in pochi click. Questo è un punto davvero molto importante, quindi puntando molto sulla digitalizzazione dei processi di vendita per offrire ai nostri clienti davvero la possibilità di acquistare online un veicolo usato, ovviamente garantito dalle garanzie ufficiali BMW Premium Selection e Mini Next. È possibile davvero gestire ogni aspetto dell'acquisto, incluso anche il finanziamento. Mi piace ricordare questo punto perché abbiamo condiviso con BMW Bank anche un programma finanziario molto competitivo per le vetture usate. Quindi questo per quanto riguarda l'usato. Abbiamo rafforzato i processi di digitalizzazione anche nell'ambito dell'after sales. Un paio di anni fa siamo partiti con la prenotazione online. Oggi abbiamo implementato dei nuovi processi quali pick up and delivery, quindi la presa della vettura a domicilio del cliente, la riconsegna della vettura a domicilio del cliente, proprio perché vogliamo condividere, essere in grado di condividere un'esperienza di brand anche a distanza. E poi con il nuovo offriamo la possibilità del nostro sito, che è davvero molto interattivo, non soltanto per la configurazione del prodotto ma anche per la scelta della modalità di pagamento piuttosto che di finanziamento. Mi piace ricordare anche per quanto riguarda il nuovo, abbiamo appena lanciato una campagna finanziaria molto innovativa, un nuovo prodotto molto flessibile, orientato al cliente e soprattutto premium. Quindi le iniziative sono davvero moltissime. È chiaro che la propensione oggi a fare un acquisto online è in ascesa e ha ottime possibilità di diventare una prassi comune, ma senza rimpiazzare, questo è importantissimo, l'esperienza reale, piuttosto favorendo un approccio omnicanale in cui il cliente rimbalza tra fisico e digitale continuamente durante il suo customer journey. sono i due canali, digitale e fisico, che lavorano assolutamente insieme, perfettamente integrati. C'è una cosa, mi lasci dire, però, due cose alle quali non possiamo e non vogliamo rinunciare: il contatto umano, che ci è mancato moltissimo in queste settimane, soprattutto con i nostri clienti, e poi l'emozione di provare un'automobile o una moto BMW. Ecco. Ovviamente, allora, queste due cose non possiamo. Non c'è rinunciare. Virtuale che tenga, quindi su quello sì, perché, siamo abbastanza sicuri. Certo. Veniamo un po' al futuro. A proposito di queste emozioni, lei prima parlava di nuovi modelli che saranno lanciati e che vedranno la luce da qui al fine dell'anno. Quali sono questi modelli e qual è il peso dell'elettrico all'interno di questo processo? Noi crediamo che davvero la via verso la mobilità elettrica sia tracciata e contiamo di tenere fede al nostro impegno di elettrificazione della gamma. Abbiamo appena annunciato un piano durante questa crisi epidemiologica, un piano di 30 miliardi di euro per ulteriormente sviluppare la mobilità sostenibile. In concreto, in cosa si traduce? Beh, si traduce nel lancio appena effettuato della mini elettrica, quindi la prima mini completamente elettrica. L'introduzione di motorizzazioni ibride plug-in su X1 e su X2, quindi i nostri Sport Activity Vehicles. Entro anno avremo il lancio della BMW iX3, quindi la X3 sarà disponibile anche con la modalità puramente elettrica. E questo mi preme anche ricordare che l'X3 sarà un esempio di quella che è la mobilità sostenibile secondo BMW. Quindi non c'è una sola motorizzazione, ma un mix di motorizzazioni. L'X3 sarà disponibile con il motore benzina, diesel Euro 6, plug-in hybridi e completamente elettrica. Il 2021 si apre con due lanci importantissimi, la i4 e poi la BMW iNext, che è un'automobile che rappresenterà davvero una nuova era in termini di elettrificazione e in termini di connettività. A questo si aggiunge ovviamente tutta la gamma plug-in hybrid e tutta la gamma equipaggiata con le motorizzazioni tradizionali Euro 6. Ripeto, l'Euro 6 è una tecnologia determinante per raggiungere i parametri di CO2 previsti dall'Unione Europea. Certo. Gli Euro 6 puliti, quelli giusti. E noi continueremo a seguire con attenzione anche il lancio di questi nuovi modelli. Termina qui questo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Ringraziamo e salutiamo il nostro ultimo ospite, Massimiliano Di Silvestre, presidente e AD di BMW Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.